Focus Economia con Deborah Rosciani. Sono le 17.09. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Avete sentito quanta attenzione oggi si sia concentrata sulle notizie che sono arrivate da Bruxelles, dove la Commissione europea ha diffuso le sue previsioni d'autunno e chiaramente si attendevano cifre che avrebbero riguardato il nostro paese. Per alcuni qualcuno parla di una doccia fredda a metà per l'Italia, perché alcune indicazioni sono migliori del previsto, altre meno naturalmente. Soprattutto c'era grande attenzione attorno alla previsione del rapporto deficit-PIL, che dice la Commissione europea quest'anno resterà al 3%. Chiaramente questa percentuale scongiura per l'Italia una riapertura della procedura di infrazione. Bruxelles ci osserva molto attentamente da questo punto di vista. Commenteremo poi naturalmente con alcuni esperti queste indicazioni arrivate oggi dalla Commissione europea, dall'esecutivo di Bruxelles. Per quello che riguarda il prodotto interno lordo, però, le stime peggiorano per quello che riguarda quest'anno. Bruxelles dice che l'Italia passa dalla recessione ad una debole ripresa che riguarderà l'anno prossimo, trainata dall'export. Ci chiediamo però, con questo euro che un po' disturba i paesi del vecchio continente, quanto sarà consistente questa ripresa che dovrebbe essere appunto trainata dalle esportazioni. Ne parleremo tra un po' di tutto questo, commentando anche le cifre dato per dato. Parleremo poi chiaramente anche della seduta di borsa, che è negativa, e soprattutto la borsa ha peggiorato dopo questa mattina la diffusione delle stime di Bruxelles. Il quadro di Piazza Affari adesso vede il FTSE MIB in ribasso dello 0,86%, ma è arrivato a perdere quasi l'1,3%, quindi adesso si risolleva un po', così come stanno facendo le altre piazze del vecchio continente, con Parigi che scende dello 0,84%, Francoforte meno 0,28%, Londra meno 0,36%, Wall Street meno 0,21% sul Dow Jones, il Nasdaq meno 0,08%, lo Standard & Poor's meno 0,24%. Il mercato americano continua a viaggiare sui suoi record, a consolidarli, e l'altra grande domanda che ci facciamo è: come fanno le borse a correre così tanto con una ripresa economica che ha ancora delle caratteristiche di grandissima fragilità? Ne parleremo magari nel corso della trasmissione. A proposito di mercati, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni. Oggi c'era l'atteso collocamento della quinta tranche del BTP Italia, la quinta emissione da un anno e mezzo, appunto questa è la quinta. Alle 16.30 di oggi pomeriggio, in totale il Ministero dell'Economia aveva raccolto, vi leggo la cifra, 16,3 miliardi. E anche nelle altre emissioni, quelle di maggior successo, una cifra del genere nella prima giornata di collocamento non era stata toccata, e questo probabilmente porterà il Ministero del Tesoro a chiudere anticipatamente l'operazione domani alle 14, ma cercheremo di capirlo poi con un esponente della borsa italiana. Gli altri temi dei quali parleremo: Pirelli sta presentando i suoi conti a Londra, ne parleremo più tardi con la nostra inviata, e poi parleremo della revisione delle rendite catastali della capitale di Roma, la revisione catastale dei quartieri centrali, che ha fatto sparire le finte case ultra popolari. Questa revisione, naturalmente, questo aggiornamento, questa situazione, questa novità porta naturalmente, permette alle casse della capitale di beneficiare di almeno 100 milioni di euro per una città che, come dire, al dissesto finanziario è sicuramente una buona cosa, un sospiro di sollievo. Però cercheremo di capire come mai si era arrivati a questa situazione in cui ai Parioli c'erano addirittura delle case con bagno in comune, almeno a giudicare dalla rendita catastale denunciata dai proprietari. Insomma, tante le cose da raccontare anche questa sera. 349 238 6666 è il numero per i vostri messaggi, e adesso le notizie in breve. Cominciamo con le materie prime, come facciamo sempre. L'oro stamattina viaggiava in rialzo sui mercati asiatici a $1,316 l'oncia, quindi più 0,3% rispetto alle chiusure di ieri. Questo guadagno permette di interrompere una serie a ribasso che durava da diversi giorni. Il petrolio invece è aperto oggi a New York, ancora in flessione a $94,28 al barile. Eni ha firmato un accordo con Quicksilver Resources per valutare, esplorare e sviluppare congiuntamente giacimenti di olio non convenzionale, lo shale oil, in aree appunto degli Stati Uniti. Ne ha dato notizia oggi un comunicato del gruppo petrolifero. In particolare, Eni parteciperà con la quota del 50% in un'area di 21.246 ettari detenuta da Quicksilver nella Leon Valley in Texas. Per acquisire il 50% dell'area, Eni investirà fino a 52 milioni di dollari. Guardiamo sempre agli Stati Uniti, agli indicatori macroeconomici per capire se l'economia reale sta dando una spinta, come dire, concreta alla borsa americana, che viaggia, come abbiamo ricordato tante volte, sui suoi record. L'indice ISM dei servizi ad ottobre è salito a 55,4 punti, un dato oltre le attese degli analisti. Questo è un indicatore che va a monitorare l'andamento del settore dei servizi in America. È salito a questo livello dai 54,4 punti di settembre. Il dato, dicevo, è superiore alle attese degli analisti, che scommettevano su 54 punti, quindi addirittura su un calo. Allora, sapete che cos'è PIMCO? È una delle più grandi società mondiali di fondi comuni di investimento. PIMCO, per la verità, è il più grande gestore nel mercato obbligazionario, ma sta perdendo questo primato perché dopo 5 anni di dominio indiscusso non ha più sotto le sue bandiere il più grande fondo comune al mondo. Questa corona spetta adesso al colosso rivale Vanguard. Il calcolo è stato fatto dalla società di rating Morningstar ed è stato riportato dal Wall Street Journal. Il passaggio di consegna è avvenuto grazie all'influsso di capitali nei fondi legati al mercato azionario rispetto all'obbligazionario, dove i rendimenti, come noto, sono compressi dalla politica di stimolo straordinario all'economia adottata dalla Banca Centrale Americana, una politica di stimolo monetario che è proprio a base di acquisti di bond. Il fondo retrocesso è il PIMCO Total Return Fund, sotto l'ala del guru del settore Bill Gross. Allora, continua a salire la disoccupazione in Spagna, anche se ci sembrava che fosse uscita dalla recessione l'economia iberica. Ad ottobre le richieste di sussidio sono aumentate di oltre 87.000 unità rispetto a settembre, portando il numero complessivo dei disoccupati a 4.811.383 unità. L'ha reso noto oggi il Ministero del Lavoro spagnolo. E oggi sono riprese le trattative fra il governo greco e la Troica, Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario. Trattative che si svolgono essenzialmente su due fronti. Il primo riguarda lo stato dell'attuazione delle misure considerate dalla Troica di primaria importanza per continuare l'aiuto finanziario ad Atene. Fra queste, la privatizzazione delle imprese a partecipazione statale, la messa in mobilità di 12.500 dipendenti del settore pubblico che saranno licenziati o trasferiti ad altri incarichi entro la fine dell'anno, la situazione finanziaria degli enti previdenziali e, ultimo ma non meno importante, il problema dell'evasione fiscale. Il secondo fronte riguarda invece il bilancio dello Stato del 2014, sul quale c'è una significativa divergenza fra le parti. La Troica calcola che il buco nel bilancio greco sia nell'ordine di 2 miliardi di euro, per il Ministero delle Finanze invece non supera i 500 milioni. Vi anticipo molto rapidamente i dati diffusi oggi dalla Commissione europea nelle previsioni economiche d'autunno, poi ci focalizzeremo chiaramente su ciò che riguarda l'Italia. Relativamente all'eurozona, il deficit nei paesi in quest'area sarà del 3,1% quest'anno, ma nel prossimo anno si ridurrà al 2,5% e al 2,4% nel 2015. Il rapporto debito-PIL complessivo quest'anno arriverà al 95,5% di media nei 17 paesi della moneta unica. E continua anche la ripresa graduale cominciata nel secondo trimestre di quest'anno. Pesano però, dice Bruxelles, i rischi esterni per le prospettive indebolite dei mercati emergenti, che non trainano più anche le economie in difficoltà. Su base annuale il PIL dell'Eurozona quest'anno sarà ancora negativo, meno 0,4%. Sarà positivo l'anno prossimo, più 1,1%, accelererà ancora nel 2015, più 1,7%. Ci sono delle dichiarazioni del commissario, del vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn, che presentando le previsioni economiche d'autunno ha detto: è troppo presto per cantare vittoria, ci sono segnali crescenti che l'economia europea ha raggiunto un punto di svolta, ma è ancora troppo presto appunto per cantare vittoria, perché è la disoccupazione a restare a livelli inaccettabilmente alti. Oggi ha parlato anche Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, qua lo aspettiamo perché giovedì si riunisce il direttivo della BCE. Tutti guardano con grande attenzione a quello che succederà perché molti sperano addirittura a una riduzione dei tassi di interesse europei. I tassi sui prestiti variano ancora molto in base al paese dove si trova il creditore. Oggi, intervenendo ad una conferenza pubblica a Francoforte, lo ha sottolineato appunto Draghi e ha detto che l'accesso al credito nell'Eurozona resta limitato, in particolar modo per le piccole e medie imprese che assicurano il 75% del lavoro nella zona euro. In questi ultimi anni nell'Eurozona le economie e le persone hanno sofferto a causa della crisi, ma ora ci stiamo riprendendo gradualmente, ha detto anche questo oggi Mario Draghi. La ripresa dell'Eurozona resta fragile, debole e disomogenea. Questo invece è quanto ha detto il membro del board della Banca Centrale Europea, Asmussen, intervenendo alla Financial Forum della Danske Bank a Stoccolma, spiegando che al momento questa è sostenuta, cioè la ripresa dell'Eurozona, solo da un motore, cioè quello delle esportazioni, mentre l'altro motore, quello della domanda interna, scoppietta ma non parte. Due note riguardanti l'Italia. Oggi, in concomitanza con la quinta emissione del BTP Italia, lo spread ha rialzato un pochino la testa, viaggia in questi minuti tra i 244 e i 245 punti base. Poi andremo appunto a Bruxelles e alle indicazioni sull'Italia. Intanto oggi ci sono stati dei dati diffusi dal Ministero dell'Economia, secondo il quale le entrate totali nei primi 9 mesi del 2013 ammontano a 291,504 milioni di euro. E questo è quanto risulta dal bollettino sulle entrate del Dipartimento delle Finanze. Le entrate IVA in questo periodo sono risultate pari a 75,079 milioni di euro e ancora, per quello che riguarda la lotta all'evasione fiscale, il Ministero dell'Economia ha fatto sapere che nel periodo gennaio-settembre 2013 gli incassi dei ruoli ammontano a 5 miliardi e 252 milioni, il 50 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2012. Fincantieri si appresta a lanciare il suo primo bond, lo apprende il Sole 24 Ore Radio Core. Oggi da fonti vicine al dossier, la società controllata da Fintecna, che a sua volta fa capo a Cassa Depositi e Prestiti, incontrerà la comunità finanziaria nell'ambito di un roadshow che partirà domani a Milano per poi fare tappa a Parigi e Londra. L'emittente non ha alcun rating, è seguito da alcuni istituti di credito italiani ma non solo. Il lancio potrebbe avvenire già nella prima parte della prossima settimana. È stato sottoscritto questa mattina al Ministero del Lavoro l'accordo che proroga per 6 mesi la cassa integrazione per 1.400 lavoratori degli stabilimenti ex Antonio Merloni di Marche ed Umbria. Lo hanno fatto sapere oggi i sindacati. Il gruppo elettrodomestico è in amministrazione straordinaria. Gli ammortizzatori sociali sarebbero scaduti il 12 novembre con il rischio licenziamento per tutti gli operai. Direi che per le notizie in breve è tutto, possiamo andare al nostro primo approfondimento di oggi. È vero, molti ascoltatori stanno osservando naturalmente la questione che abbiamo già un po' commentato prima, cioè questa disoccupazione sulla quale a quanto pare non c'è grande preoccupazione generale e l'economia che sta riprendendo. Non si capisce come possano mettersi insieme queste due, come dire, questi due aspetti. Peraltro proprio poco fa il ministro Saccomanni, parlando a Londra, commentando naturalmente le previsioni d'autunno della Commissione Europea, ha detto: quello sulla disoccupazione è un dato doloroso a cui siamo estremamente attenti, ma non inficia le prospettive di crescita. Il fatto che ci sia disoccupazione non vuol dire che non c'è ripresa, perché evidentemente le imprese, le aziende sono produttive ai massimi livelli, strizzate fino al midollo. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Allora, andiamo subito alle previsioni d'autunno della Commissione Europea. Io ho dato solo pochissime percentuali prima e ho raccontato quelle che riguardano l'Europa. Do a te il compito, se vuoi, di raccontarci cosa ha detto Bruxelles sull'Italia. Perché qualcuno parla di una doccia fredda a metà, e Beda Romano sul sito del Sole dice: la controversa strategia di politica economica dell'Italia riceve il beneficio del dubbio da parte della Commissione Europea. È così? Beh, in parte. Allora, dividiamo il ragionamento. Per quel che riguarda il 2013, mi sembra che a questo punto si possa dire che le stime sostanzialmente coincidono, perché il governo prevede per la fine dell'anno una contrazione del PIL dell'1,8% e la Commissione europea prevede la stessa cosa. Il governo prevede un deficit al 3% e la Commissione europea si allinea. In sostanza non ha fatto altro che certificare i dati che sono stati comunicati anche dall'Istat. Il problema riguarda il 2014, anche perché il 2013 ormai è in fase di conclusione. Ed è su questo che invece osserviamo delle valutazioni che sono abbastanza differenti, perché il ministro Saccomanni proprio una settimana fa in Parlamento si è spinto fino a prevedere un aumento del PIL, quindi una crescita dell'1,1%, che date i precedenti sarebbe un risultato non da poco. Il problema è che sia l'Istat che la Commissione europea e anche molti dei previsori internazionali non prevedono un incremento così robusto, anzi si limitano a prevedere uno 0,7 se andrà bene. E questo ha un effetto, ed è tutto evidente, perché se si cresce di meno ci sono meno entrate, ci sono effetti sui conti pubblici, e infatti se il governo nel 2014 prevede di avere un deficit del 2,5, ecco che la Commissione lo spinge fino al 2,7, e quindi qua effettivamente sul 2014 ci sono delle stime che ballano tra il governo e Bruxelles. A questo punto bisognerà attendere per capire chi avrà ragione, ma in brevissime, in pochissime parole, il ministro Saccomanni ha più volte detto che la differenza si deve al fatto che il governo ha calcolato anche l'effetto sul PIL, quindi sulla ricchezza del paese, dello sblocco di tutta quella partita pregressa dei crediti della pubblica amministrazione verso le aziende. Ecco, è vero che questo ha un impatto, perché c'è più liquidità, le imprese hanno più disponibilità, ma chi lo dice che tutto questo si tradurrà in un aumento della ricchezza? Quindi qui siamo un po' nell'ambito della leggerezza delle statistiche, che sono in qualche modo opinabili, e sono le stime che sono di per sé costruite in tempi di crisi su variabili molto oscillanti. Aleatorie, certo. Allora, volevo commentare questi elementi che abbiamo raccontato con Dino Pesole anche con il professor Alberto Quadrio Curzio, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, che saluto. Buonasera, professore. Buonasera, eccoci, grazie per l'invito. Grazie a lei naturalmente per averlo raccolto prontamente, come sempre fa. Allora, chiedo anche a lei un commento sulle indicazioni di Bruxelles. Saccomanni dice la previsione al ribasso della Unione Europea era nota, non è un dramma, non vedo un fatto nuovo, d'altronde ha già litigato ieri con l'Istat, non ci pensa nemmeno a aprire un nuovo dibattito anche con la Commissione Europea. È una ripresa che, tra l'altro, quella che vedremo l'anno prossimo, secondo la Commissione Europea, sarà trainata fondamentalmente dall'ex export. Con questo euro ce la farà l'Italia, professore Quadrio Curzio? È una domanda ben difficile per dare risposte che siano fondate adeguatamente. La mia impressione è che l'euro forte sia certamente un fattore molto penalizzante, a meno che la domanda interna tedesca abbia a riprendere, così come da più parti si spinge la Germania a fare. Se ciò non accadesse, con questo cambio non sono sicuro che la dinamica delle nostre esportazioni potrebbe reggere nel 2014 una crescita prevista dal documento di economia e finanza aggiornato a settembre di un 4,2 e un 2015 di un 4,5, perché sono dei numeri importanti che con questo cambio mi paiono abbastanza ottimistici. Naturalmente, se la Germania, presa da qualche sintomo di rimorso, e anche se alla Commissione europea dovesse arrivare un presidente vigoroso come potrebbe essere lo stesso Schulz, allora lo scenario 2014 potrebbe cambiare, e questo sarebbe certamente possibile anche con un euro forte, perché sarebbe il mercato interno a riprendere, non la domanda esterna all'eurozona. Professor Quadrio Curzio, io immagino che questa domanda gliel'avranno fatta già 2000 volte, e trovare appunto anche una spiegazione ragionevole è molto complicato, però noi parliamo di questa economia che è ancora in difficoltà, lo è soprattutto nell'eurozona, ma a parte come ci sono anche delle giornate alterne negli Stati Uniti, perché non è che là ancora tutto vada in maniera così poi felice, abbiamo i mercati finanziari, le borse che sono sui massimi. Sappiamo bene che questo record degli indici americani, così come anche di qualcuno europeo, è determinato dalla forte e dall'enorme liquidità che c'è in circolazione, dalla politica di stimolo monetario eccezionale che hanno condotto tutte quante le banche centrali, ma io mi chiedo per quale motivo ancora, visto che le borse hanno corso tanto, non comincia un pochino a trasferirsi tutta questa liquidità anche all'economia reale? Perché non si può cominciare a fare un binario che cammina insomma parallelo insieme? Perché io temo che di nuovo ci siano degli atteggiamenti opportunistici per cui chi ha liquidità ritiene di poter guadagnare rapidamente con delle operazioni sostanzialmente di mercato e non delle operazioni che hanno a che fare con l'economia reale. Il problema è che quando si creano delle dinamiche così forti di aumento dei prezzi borsistici, prima o dopo ci sarà una correzione. E allora chi è rimasto sull'onda, sul culmine dell'onda, prima che la correzione avvenga, viene trascinato giù e ne paga il prezzo. La mia impressione è che oggi come oggi, sempre ragionando a scala europea, quello che manca all'Europa è la capacità di offrire ai mercati dei titoli, in questo caso mi riferisco a titoli obbligazionari, che abbiano un rendimento costante buono nel corso del medio-lungo termine. E qui mi rifaccio al solito discorso di Euro Union Bond, perché gli stessi titoli obbligazionari tedeschi non è che siano poi così incoraggianti in questo momento, a parte che pagano dei tassi di interesse reali negativi. Ma gli stessi titoli tedeschi sono ormai stati sovraccaricati di domanda e quindi prima o dopo avranno anche loro una correzione. Quindi la mia impressione è che per quanto riguarda gli Stati Uniti, va bene, tutti continuano a sperare che la potenza nominale di quella valuta, unita a tante altre forme di forza degli Stati Uniti, dia comunque una garanzia, anche se il dollaro è debole. Per quanto riguarda l'Europa, denota, a mio avviso, una incapacità di offrire dei titoli adeguati a una forte liquidità che c'è in giro nei mercati mondiali. Dino Pesole, torno a te per un ultimo commento, poi dobbiamo salutarci. Vabbè, allora la Commissione europea dice che l'Italia rispetterà almeno per quest'anno il rapporto deficit-PIL al 3%, ma l'Italia non ha ancora detto dove troverà i 2 miliardi e 600 milioni che le servono per cancellare il saldo IMU di dicembre. Eh già, questo è un problema non da poco. Vedo che il ministro Saccomanni si sta soffermando su questo tema anche nel corso della conferenza stampa a Londra, sì, la decisione non facile, ha detto. Decisione non facile, ma soprattutto perché c'è poco da fare, 2 miliardi e mezzo da reperire a dicembre, non vedo molte altre soluzioni se non aumentare le imposte, cioè ricorrere a quegli odiati balzelli che sono le accise. E dunque molto probabilmente la decisione politica più saggia sarebbe quella di convogliare eventuali nuove risorse, ma credo che non ce ne siano proprio, ma laddove fosse possibile reperirle per potenziare la dote finanziaria della manovra, che è alquanto scarsa, oppure per mantenere il deficit certamente nei binari concordati. Sui conti del 2013 pende ancora questa incognita e non è ancora stata risolta, quindi anche per questo Bruxelles mantiene un atteggiamento di prudenza in attesa che il Parlamento poi dica anche la sua, il governo faccia sapere come intende e dovrà farlo entro fine mese, ormai ci siamo sostanzialmente. Professor Quadrio Curzi, un ultimo commento lo lascio fare anche a lei. Saccomanni da Londra sta dicendo sulle privatizzazioni dobbiamo fare un programma da presentare entro l'anno perché sono un modo per accelerare il processo di riduzione del debito rispetto al PIL e renderlo più credibile. Quale privatizzazione italiana rende questo rapporto più credibile? Credo che utilizzare le privatizzazioni in un anno 2014, che non sarà comunque un anno facile per ridurre il debito pubblico italiano, sarà un'operazione davvero acrobatica. Io vedrei con molto più favore una forte misura di taglio della spesa pubblica, la cosiddetta spesa pubblica improduttiva, che di per sé è un mantra, ma sappiamo tutti che esiste e che determinerebbe atteggiamenti nuovi su una spesa pubblica totale rispetto al PIL intorno al 50%. Ecco, creare avanzi primari significativi tagliando una parte della spesa pubblica sarebbe la strada maestra, ci vuole del tempo. L'altra strada è quella della privatizzazione, ma io non vedo tanto la privatizzazione di Eni o di Enel, quanto se si riuscisse a fare un'operazione importante su un patrimonio immobiliare che in parte adesso è stato preso in carico dagli enti locali, i quali enti locali potrebbero servirsi anche della Cassa Depositi e Prestiti, che ha una SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, per cercare di fare delle operazioni di snellimento del patrimonio immobiliare stesso. Per il resto, la riduzione del debito pubblico italiano dipende anche molto dal calo degli interessi, perché sappiamo bene che 100 punti di spread, o meglio un punto di interesse medio sui titoli di Stato, a regime ci fa risparmiare quasi 7-8 miliardi. Eccoci ritrovati in diretta e naturalmente a quest'ora, come sapete bene, c'è l'appuntamento con la borsa. Livia Zancanè, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E ancora una volta si distingue Milano come peggior piazza d'Europa. Che è successo? Allora, Milano dobbiamo dire è stata penalizzata dall'andamento del settore bancario, che ha registrato forti vendite, ricordiamo, nel giorno del BTP Italia, che si avvia a chiudere con ordini. Non anticiparci niente, perché tra poco abbiamo la borsa italiana che ci racconta tutto. Grazie, Livia. Perfetto. Comunque, manteniamo la suspense. Perfetto, bisogna ricordare anche che il settore bancario ha penalizzato tutti gli indici europei, il settore ha infatti chiuso con un calo di oltre l'1% in Europa, e diciamo che a influenzare negativamente sulle borse oggi è stato anche il taglio delle prospettive di crescita dell'Eurozona da parte della Commissione europea. Infatti per il 2014 il PIL è previsto in rialzo dell'1,1%, mentre le stime precedenti indicavano una crescita dell'1,2%. E infatti poi sarà che qualcuno magari non valuta con grande interesse queste previsioni, di fatto però oggi, come abbiamo commentato anche nella prima parte del programma, hanno mandato in rosso e anche pesantemente la borsa italiana. C'è però da dire, lo ricordiamo molto spesso, che non tanto Piazza Affari quanto le altre borse, molti listini viaggiano sui loro massimi storici, per cui ogni tanto qualche notizia così in chiaroscuro viene presa come pretesto per vendere e portare a casa un po' di guadagni recenti. Andiamo ai protagonisti della seduta. Dicevamo male bancari, il peggiore è stato Unicredit, -2,58, ma si è salvata per esempio Monte dei Paschi, che invece ha guadagnato un punto. Sì, assolutamente sì, ricordiamo che l'attenzione sul Monte dei Paschi è molto alta, anche ieri il titolo aveva fatto bene, ci sono indiscrezioni sull'interesse da parte di fondi per lo più americani per le azioni, per il pacchetto di azioni messo in vendita dalla fondazione MMPS, quindi vediamo che le azioni stanno comunque sovraperformando il mercato. Un altro titolo bancario che ha fatto bene, si è mosso in controtendenza, è stato quello della Banca Popolare di Milano nel giorno in cui si riunisce il Consiglio di Sorveglianza. C'è grande bagarre all'interno della Popolare di Milano, comunque oggi appunto, come diceva Livia, +2,13%, bene anche Pirelli, +1,49%. Sì, Pirelli ha recuperato le perdite di ieri ed è andata bene in una giornata in cui il comparto auto in Europa ha perso l'1,1%, vi è attesa questa sera mercati chiusi per i conti della trimestrale per i 9 mesi e domani per il piano industriale che verrà presentato a Londra. Gli operatori si focalizzano soprattutto sulle prospettive, quindi sulla guidance per il 2013, e per quanto riguarda il piano sull'andamento del mercato sudamericano, sulla Russia e sugli investimenti che verranno effettuati nei prossimi anni. Noi abbiamo la nostra inviata Valentina Furlanetto a Londra, che poi ci racconterà appunto intanto i conti che vengono diffusi stasera e poi domani, come diceva Livia, la presentazione del piano industriale della società della Bicocca. Andiamo un po' noi abbiamo raccontato invece della giornata della regina della seduta per Mediaset, che stamattina è partita come un razzo in avvio di giornata, +6%, poi chiude con +3,43%. Sì, e dobbiamo dire che da inizio anno il guadagno è un record, perché al momento segna +147,8% ed è il miglior titolo del FTSE MIB da inizio 2013. Oggi a premare le azioni è stato un report della banca d'affari Goldman Sachs, che ha inserito il titolo proprio nella lista dei titoli preferiti. Goldman Sachs dice che Mediaset è una delle aziende meglio esposte alla ripresa del settore in Europa, e in merito alla raccolta pubblicitaria questa volta vi sono delle stime più positive, nel senso che Mediaset dovrebbe chiudere l'anno con un -10% di raccolta dopo il -17% registrato nel primo semestre. Per l'anno prossimo e per il 2015 le prospettive sono più rosee rispetto agli agli anni passati. Andiamo a vedere gli altri titoli. Allora, chi si è comportato bene? Anche Finmeccanica in rialzo di un punto, Toz più 0,9, Terna più 0,6%, Parmalat più 0,41. Dall'altra parte della classifica, oltre alle difficoltà dei bancari, troviamo Prysmian meno 2,70, Exor, quindi Galassia Fiat meno 2,44, Enel meno 2,42. Tra l'altro qua attenzione, perché Saccomanni ha rilanciato un piano di privatizzazioni per l'anno prossimo, senza naturalmente fare alcun tipo di nome. Vorrei vedere tra gli altri titoli che si sono mossi a ribasso com'è andata la giornata di Telecom Italia, che no, invece chiude positiva, più 0,07%. Sì, Telecom Italia ha chiuso in territorio positivo, ha mostrato un andamento maltalenante oggi. Allora, domani Fossati, che è azionista con il 5% della compagnia, che ha convocato un'assemblea straordinaria per revocare l'attuale CDA, ha convocato gli analisti a Londra per illustrare la vicenda Telecom, quindi vi attesa domani per la conferenza che si terrà con gli analisti, che dovrebbe essere intorno alle 16. Giovedì vi è l'attesa invece per il CDA sui conti, sul piano industriale, sulle future mosse che dovrebbe prendere il manager per rafforzare la struttura patrimoniale. Indiscrezioni parlano di un piano in cui vi sarà, potrebbe esservi un aumento di capitale superiore a 1 miliardo di euro, oltre alla vendita di Telecom Argentina, all'azzeramento dei dividendi. Benissimo, Livi, abbiamo terminato con i casi del giorno. Possiamo segnalare tra i titoli minori Bioera, che praticamente ha guadagnato il 37% circa dall'1 novembre, cioè il giorno in cui ha depositato la documentazione per lo sbarco in borsa della controllata Key Group. Quindi diciamo che la quotazione della controllata sta facendo sicuramente bene alla casa madre, che sta continuando a 37% dal 1 novembre, perché oggi vedo più 21, quindi ha fatto un calcolo da quel giorno. Insomma, qua continuano ad essere molto ben acquistati tanti titoli, non si capisce come mai questa borsa corre, almeno su certe storie, con pochi soldi invece che circolano tra l'economia reale. Comunque, questo è un altro tema. Livia, grazie per essere stata con noi, buonasera. Grazie a voi, buona serata. Eccoci ritrovati insieme, allora ancora buonasera da Deborah Rosciani. Come sapete, perché in questi giorni abbiamo parlato molto, è tornato il BTP Italia con l'emissione numero 5, che ha preso il via oggi, durerà in teoria fino a venerdì 8 novembre, ma si percepisce già l'intenzione da parte del Ministero dell'Economia di come dire, portare avanti questa chiusura anticipata. Quella di oggi è stata l'ultima delle due emissioni che erano previste per quest'anno, complessivamente la quinta. Nelle altre quattro il Tesoro ha raccolto 44 miliardi di euro. Buonasera Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Buonasera a voi. Subito il bilancio di questa giornata da record. Beh, sicuramente una giornata da record, un grandissimo successo, direi un record storico per l'operazione in una singola giornata, 16 miliardi 841 milioni 089 mila controvalore collocato del nuovo BTP Italia, con 224 mila 878 contratti, per cui direi un risultato direi impressionante. Allora, ecco, so che questa decisione non spetta a lei, ma domani lo deciderà il Ministero dell'Economia. È anche abbastanza, come dire, prevedibile che il MEF opti per la chiusura anticipata domani alle 14, perché era, come dire, una clausola che si era prevista, no, all'inizio, quando è stata comunicata l'operazione. Siamo in attesa di una comunicazione da parte del Tesoro, che dovrebbe farci sapere qualcosa nei suoi minuti. Allora, tra l'altro c'è tutta la giornata, c'è anche metà giornata domani, quindi chissà a quanto ammonterà poi complessivamente il collocamento finale. 44 miliardi, dicevamo, nelle operazioni precedenti, peraltro anche quelle quattro, le ricordo molto bene, con bilanci molto differenti l'una dall'altra, perché un paio hanno raccolto 17-18 miliardi, ce n'è stata una che addirittura nel giugno forse del 2012 prese qualcosa come poco di più di un miliardo di euro. Un miliardo e sette. Esatto. Come mai questa differenza, secondo lei, Poletto? C'era state anche condizioni di mercato non particolarmente felici, c'erano stati due giorni di bank holiday a Londra, c'erano situazioni che magari avevano un po' penalizzato la seconda emissione. Senta, voi potete monitorare e controllare qual è l'importo medio di un singolo contratto? Sì, però questi dati non li abbiamo ancora, dobbiamo elaborarli, per cui eventuali comunicazioni in tal senso le faremo a fine collocamento. Allora, lei lo sa che a questo punto ci tocca anche di nuovo raccontare un po' quali sono le caratteristiche di questa operazione, le caratteristiche di questo titolo che è stato studiato e messo sul mercato dal Ministero dell'Economia proprio per accontentare il pubblico retail, poi in realtà le operazioni sono andate a ruba anche tra gli investitori istituzionali. Durata del titolo 4 anni e poi che cos'altro? Tra l'altro sul rendimento poi le voglio chiedere qualcosa. Sì, durata 4 anni, per cui una durata non particolarmente impegnativa che può soddisfare le esigenze di un investitore retail. Ricordiamo che un'indicizzazione all'inflazione italiana, che è un'indicizzazione storicamente leggermente più alta di quella europea, e anche più familiare all'investitore italiano, e in fase di collocamento non ci sono commissioni di collocamento, per cui non vengono applicate alle banche nessun tipo di commissione per chi lo sottoscrive, in più per chi mantiene il titolo fino a scadente c'è anche il premio fedeltà del 4 per 1000. Il rendimento minimo garantito a cui va agganciata l'inflazione è dell'1,25%, l'avete fissato fissato 2 giorni fa, mi ricordo male? No, è del 2,15. Sì, sono sbagliato un tantino. 2,15 più poi l'inflazione. Che verrà maturata. Ecco, che verrà maturata. Quindi praticamente le cedole di questo titolo come vengono calcolate? Nel senso che ammettendo che nel giro di 3 anni l'inflazione dovesse raddoppiare, poi noi lo speriamo perché questo potrebbe indicare una ripresa delle condizioni economiche generali, però il BTP Italia gli va dietro come rendimento, come funziona Poletto? Sicuramente questo 2,15 è la cedola minima garantita a cui si verrà a sommare l'inflazione maturata da qui al primo stacco cedola. Quindi da questo punto di vista, anche se siamo in una fase dove l'inflazione sta scendendo rispetto a quello che succedeva magari un anno fa, però qualora dovesse riprendersi, che ovviamente qualche indicatore, qualora ci fosse un po' di ripresa economica, piuttosto anche il recente aumento dell'IVA, potrebbe poi riverberarsi anche sui prossimi dati inflattivi, e questo evidentemente ne beneficerà anche questo tipo di titolo, che ci permette anche di avere questo tipo di copertura da questo rischio inflattivo. Poletto, questa che le faccio pure non è teoricamente una domanda da rivolgere a lei ma al Ministero dell'Economia, però insomma, siccome lei è molto affezionata a questa operazione che la cura dall'inizio, inflazione in calo, dice un ascoltatore, tassi in calo, perché comprare il BTP Italia? Intanto il BTP Italia è uno strumento, come dire, nuovo, che può ben accogliere le esigenze degli investitori. Ovviamente come tutti i prodotti finanziari, va analizzato bene in base alle esigenze dei singoli investitori, in base a una asset allocation e diversificazione del proprio portafoglio che deve essere ben calibrata. E questo insomma è il suo giudizio. Senta, un'ultima curiosità, poi la lasciamo. Noi parliamo di queste operazioni generalmente sempre nel periodo del collocamento per spiegarle, ma poi cosa succede sul mercato secondario? C'è molto movimento anche su questo tipo di titolo? Devo dire che ovviamente nel mercato secondario comunque è ben scambiato, poi c'è il supporto dei co-dealer che hanno degli impegni di quotazione con importi quotidiani definiti e spread definiti, per cui questo è un'ulteriore garanzia di liquidità nel mercato. Poi se si ha avuto modo di vedere anche l'andamento sul secondario dei vari titoli precedenti, hanno sovraperformato rispetto ai BTP non indicizzati all'inflazione di pari scadenza, per cui da questo punto di vista è un andamento più che lusinghiero. Ed eccoci ritrovati in diretta, buonasera ancora da Deborah Rosciani con Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria, e naturalmente subito molti ascoltatori mi hanno segnalato l'errore che avevo fatto, che per la verità più che un errore mi sembrava proprio un refuso, non mi ricordavo di una cosa che era la cedola minima garantita del BTP Italia. Vabbè, cosa volete farci qua, quando siamo qua dentro tante ore ci sbagliamo pure noi, alle 6 di sera abbiamo un cervello che ci frigge. Detto questo, adesso invece parliamo di un altro argomento, una polemica che si è scatenata sui giornali e che ha destato naturalmente anche la nostra curiosità. Allora, Pomì utilizza solo pomodori freschi coltivati nel cuore della pianura padana, ad una distanza media inferiore ai 50 km dagli stabilimenti di confezionamento. È la nuova pubblicità dell'azienda Pomì che ha fatto scoppiare la polemica soprattutto online, dove la pagina Facebook dell'azienda è stata sommersa di proteste, ma l'azienda si giustifica e sempre online ha risposto che i recenti scandali di carattere etico-ambientale che coinvolgono produttori ed operatori nel mondo dell'industria conserviera stanno muovendo l'opinione l'opinione pubblica, generando disorientamento nei consumatori verso questa categoria merceologica. Il nostro si tratta di un atto dovuto, ha detto l'azienda, dovuto nei confronti dei consumatori. Eppure, come scrive oggi Il Sole 24 Ore, la crisi ambientale sta mettendo in crisi il settore agroalimentare campano, da quando un mese fa le principali centrali di acquisto hanno iniziato a chiedere nella provenienza del prodotto. Le vendite della Campania sono crollate del 30%. La Campania è la terza regione d'Italia per produzione agricola, con 65.000 addetti, 3 miliardi di euro di fatturato, a cui si aggiungono 25.000 addetti e un fatturato di 1,5 miliardi di euro nel settore delle conserve vegetali. E quindi una grossa polemica intorno a questa pubblicità di questa azienda. Allora, a questo proposito, oggi è stato intervistato da Simone Spezia ad Effetto Giorno Antonio Ferraioli, presidente dell'ANICAB, l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari e Vegetali. Sentiamolo. Sicuramente è stato quantomeno una pubblicità inopportuna, perché i clienti si possono rassicurare in mille modi, però in questo momento fare una pubblicità in cui si va a precisare che il pomodoro viene da una determinata zona e sicuramente non da un altro, stante che sta tutta questa problematica legata alla terra dei fuochi, l'abbiamo interpretato come una cosa non molto positiva, sicuramente poco elegante. D'altro canto, noi come ANICAP abbiamo anche diffuso ieri un comunicato stampa in cui abbiamo ben precisato la nostra posizione, cioè, nel senso di dire che innanzitutto le industrie aderenti all'ANICAP effettuano controlli molto accurati sulla materia prima e sul prodotto finito, e questo non solamente per il pomodoro che viene dalla zona di Caserta, ma per quello che ritiriamo anche da altre parti d'Italia, perché in effetti nel centro-sud la regione maggiore produttrice è la Puglia, poi ce ne sono altre. Il pomodoro di Caserta in particolare, ma questo non vuol dire niente, ma solamente per una precisazione, rappresenta solamente il 7% di quello lavorato nel centro-sud e il 3,85% del pomodoro fresco trasformato in Italia. Ferraioli, volevo capire se con questo ritorno di interesse per queste vicende ricevete già qualche segnale dal mercato. Insomma, lei produce nel Mezzogiorno, in una zona non propriamente interessata da quello di cui si parla in queste ore, però insomma è chiaro che poi alla fine rischiano di risultare tutti coinvolti. Allora volevo capire se ricevete qualche segnale di mercato che questa cosa sta pesando. No, a livello di mercato le posso dire che nessun problema, nel senso che stiamo continuando ad avere i nostri dati di fatturato abituali, anzi in crescita rispetto al periodo precedente, rispetto all'anno precedente. Ovviamente qualche cliente chiede qualche rassicurazione, gliela diamo, siamo tranquilli, ne facciamo tutti i controlli dovuti, quindi non abbiamo problemi di nessuna natura. Quindi, d'altro canto, poi c'è anche da dire una cosa, che quando si parla di Terra dei Fuochi è un territorio limitato, non è tutta la provincia di Caserta. Tra l'altro sono state già effettuate dagli organismi competenti, noi siamo in costante contatto con gli organismi regionali e ci hanno anche rassicurato che tutti i controlli che hanno fatto fino ad oggi, sia per quanto riguarda i suoli, sia per quanto riguarda il prodotto, hanno dato risultati assolutamente tranquillizzanti. Avete timori per il futuro? Ma guardi, timori no, noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, dobbiamo continuare ad effettuare controlli molto accurati sulla materia prima, perché questo è il nostro dovere, noi siamo in grado di garantire la massima tracciabilità della materia prima che utilizziamo, siamo in grado di garantire ai consumatori sui controlli che facciamo veramente accurati e quindi possono stare più che tranquilli, dobbiamo continuare a fare questo. E poi d'altro canto stiamo lavorando anche con le autorità regionali, perché riteniamo questo è un problema su cui va fatta chiarezza assolutamente, perché non è giusto che ci sia poi una penalizzazione anche a livello economico di questi territori. L'agroalimentare è un settore importante dell'economia campana, dell'economia del Mezzogiorno, e come tale deve essere tutelato. Le autorità pubbliche ci devono collaborare per far sì che se esiste un problema, questo problema venga riportato alla sua giusta dimensione e che quindi i consumatori debbano stare tranquilli. Allora, eccoci ritrovati in diretta. L'Agenzia delle Entrate ha riclassificato 175.000 immobili di 17 microzone di Roma, dal centro storico ai Parioli, da Trastevere alle Ville dell'Appia. L'operazione è scattata dopo 3 anni di indagini e permetterà di eliminare categorie catastali che resistevano ufficialmente solo perché, guarda caso, i proprietari non si erano ancora decisi a segnalare le variazioni apportate ai loro immobili. L'operazione romana è la 17ª realizzata in Italia dall'Agenzia delle Entrate ed è la più estesa dopo quella che a Milano ha riguardato 4 microzone per un totale di 30.000 immobili. Saverio Fossati, ancora buonasera. Allora, intanto, come mai l'Agenzia delle Entrate ha fatto questa operazione di riclassificazione? Chi glielo ha chiesto? Gliel'ha chiesto il Comune di Roma, che insieme con altri soli 16 comuni in tutta Italia, dal 2005 a oggi, cioè in 9 anni, ha usufruito di un articolo 1,335 della legge 211 del 2005, che stabiliva questa possibilità, cioè rivolgersi all'Agenzia del Territorio e dire: ma guardate, in interi quartieri del mio comune evidentemente il prezzo è complessivamente molto salito, si è tutto molto apprezzato perché sono cambiati gli abitanti, perché sono diventati di pregio, perché hanno fatto negozi belli, parchi, così, e quindi noi vi chiediamo di fare una riclassificazione un po' massiva. Questo è già stato fatto con successo al Comune di Milano nel 2008, aveva già portato degli ottimi risultati. Anche a Milano avevano scoperto che c'erano delle abitazioni che avevano un bagno in comune in certe zone. Beh sì, c'era ancora qualche A5, cioè ultrapopolare col bagno in comune, però le microzone erano, tanto per dire, Monte Napoleone, cioè Quadrilatero della Smoda, via Monzoni, Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele, via Brera, Corso Venezia, via Monti, via Pagano. Che evidentemente andavano riclassificate. Tutte case, certo, che insomma che viaggiano dai 5.000, 6.000 euro metro quadrato in su, e hanno fatto una grande operazione, a dire puristi, diciamo così, innalzando la categoria e la classe di questi immobili, che vuol dire in termini di imposte poi un aumento cospicuo della rendita catastale. A Milano per esempio erano circa 43 milioni di rendita catastale in più, che vuol dire poi molto rozzamente quasi altrettanti milioni fra IMU e imposte varie incassate soprattutto dal comune in piccola parte dallo Stato. Per Roma invece sono oltre 100 milioni, se non ricordo male. Sì, a Roma hanno aggiornato e ottenuto circa 123 milioni di rendita catastale. Io ho fatto un calcolo molto approssimativo, ma stimo che almeno 100 milioni in più fra IMU e altre IMU TASI e altre piccole cose il comune le tirerà su. Ecco, com'è avvenuto? Loro hanno indagato su un'area più vasta di quella di Milano, devo dire, però se consideriamo che la microzona, cioè il quartiere cosiddetto centro storico di Roma, che corrisponde più o meno a quelle zone di Milano che vi avevo detto prima, ebbene, dove sono state cambiate le rendite a circa 30.000 case di quelle 175.000 che dicevamo prima variate, e altrettante erano state cambiate a Milano, e infatti gli importi sono simili, anche lì siamo sui 44 milioni di rendita catastale in più, il che vuol dire 47 milioni, scusate, il che vuol dire che quando si fanno queste operazioni nelle grandi città e si individuano molto bene i quartieri centrali che hanno cambiato proprio aspetto, allora lì si sa già che un bel numero di case viene sicuramente cambiato di rendita catastale, e quindi c'è sicuramente anche un grosso incasso per un comune. Cioè, però non è solo un problema di incassi, è anche un problema di giustizia, perché tutti quelli che onestamente hanno denunciato al catasto la variazione del loro immobile quando hanno fatto i lavori l'hanno migliorato, o peggio ancora quelli che hanno comprato una casa nuova quindi con una rendita catastale determinata in base alla realtà effettiva, beh, questi pagavano molte più imposte di chi se ne stava tranquillo nel centro storico con case bellissime che però catastralmente risultavano ancora case popolari, ultrapopolari. Quindi è stata un'operazione di perequazione e di giustizia nei confronti dei contribuenti. Ovvio, quindi a prescindere dal fatto che al Comune di Roma è tutto grasso che cola con questo denaro che arriva, insomma è chiaro che è una questione anche di giustizia. 1859 case in questi quartieri erano classificate come ultrapopolari, quindi ricadevano nella categoria catastale A5, oggi sono diventate 28 e sono le famose case che dicevo 28. Io hanno il bagno in comune. Sì, esatto, evidentemente queste hanno proprio ancora il bagno in comune, apparteranno a qualche vecchiettino che non ha mai voluto cambiare, che ancora appartiene al proletariato romano che un tempo popolava densamente il centro storico, ma è lo stesso discorso di Milano. Nel centro storico ancora negli anni 60-70 c'era tante persone di estrazione sociale modesta che abitavano in appartamenti modesti. Poi tutto è cambiato a partire dagli anni 80 in poi, tutte queste case sono state vendute ad altre persone a prezzi alti, queste altre persone le hanno fatte diventare appartamenti molto belli, adesso valgono un sacco di soldi, però erano rimaste. Ecco, tu parlavi, ti soffermavi sulla questione della giustizia, non ci sembra però molto giusto che praticamente questa riclassificazione non comporti un pagamento del pregresso da parte dei proprietari pizzicati in una situazione non conforme. Questo è solo colpa del comune. comuni. Intanto ricordiamo la cifra minima: 17 comuni su 8.100 hanno scelto questo tipo di riclassificazione rapida per microzone. Naturalmente, se consideriamo che questa roba funziona con le città un po' grandi, però almeno un 150 città sopra i 100.000 abitanti circa ci sono in Italia, e quindi di queste soltanto il 10% ha fatto questa scelta. E poi bisogna dire che la procedura così concepita purtroppo non consente di recuperare l'arretrato, quindi queste persone riceveranno entro dicembre la notifica personale del cambio della loro... Perché non è un reato non aver variato la rendita catastale. No, non è assolutamente un reato, in ogni caso, certo, e sarebbe un illecito dal punto di vista catastale e dal punto di vista tributario, perché tu hai pagato meno imposte. Però quando si fa questa procedura, questa, diciamo, situazione pregressa viene in un certo senso sanata. Entro dicembre riceveranno la loro nuova rendita, potranno fare ricorso entro 60 giorni, dopodiché dovranno sicuramente pagare. L'altra procedura, quella del comma 336, sempre di quella legge del 2005, invece era molto più puntuale, ma in quel caso era il comune che doveva comunicare all'agenzia del territorio, perché non dimentichiamo che è l'agenzia del territorio aver fatto questa operazione, ora inglobata nell'agenzia delle entrate, ma l'hanno avviata loro. Avrei dovuto comunicare all'agenzia del territorio puntualmente, appartamento per appartamento, tutti quelli che avevano fatto delle variazioni urbanistiche, fatto il bagno, ampliato l'appartamento, passando quindi di categoria. Ecco, i comuni non l'hanno mai fatto, l'hanno fatto, diciamo, in piccola parte alcuni comuni, gli unici due grossi, Genova e Torino, diciamo, poi l'hanno fatto alcune centinaia di comuni, ma in modo molto parziale, cioè in pochi casi, diciamo. Pensiamo a quello che sarebbe successo se l'avessero fatto veramente Roma e Milano, per esempio, e in questo caso sì, allora gli arretrati sarebbero scattati, però oggettivamente è un fenomeno che è rimasto confinato solo a un po' di comuni minori e come città maggiori solamente a Genova e Torino. Allora ti chiedo di aspettare solo qualche secondo, Saverio, perché adesso devo andare a Londra, poi magari chiudiamo ancora su questo argomento. Devo andare a Londra, dove c'è la nostra Valentina Furlanetto, che sta seguendo la diffusione dei conti del gruppo Pirelli. Valentina, buonasera, raccontaci tutte le informazioni, che tra l'altro sono proprio di qualche istante fa. Sì, buonasera Debra, buonasera agli ascoltatori. Come dicevi, sono a Londra per questa diffusione dei dati del terzo trimestre di Pirelli. Domani tra l'altro Pirelli darà la comunità finanziaria il piano industriale, rimandato già due volte, quindi appuntamento anche domani per questo piano industriale, che insomma è molto atteso. Sono stati dati poco fa, come dicevi, i dati del terzo trimestre, dai quali risulta che il margine operativo lordo prima degli oneri di ristrutturazione è pari a 813 milioni di euro, un po' più basso degli 817 milioni del corrispondente periodo 2012. Il risultato operativo pari a 581 milioni di euro, in calo del 3,2% rispetto ai 600 milioni del corrispondente periodo 2012. Questa variazione negativa, scrivono da Pirelli, è imputabile essenzialmente all'impatto derivante dai cambi al minor costo delle materie prime. Tra l'altro è sottolineato come il buon andamento dei mercati emergenti abbia compensato la debolezza dei mercati maturi come l'Europa e il Nord America. Ci sono anche dei dati che riguardano l'amministratore, il delegato presidente Tronchetti Provera, che il CDA ha conferito a Tronchetti Provera il mandato per approfondire una possibile partnership per la Business Unit Steel Cord. Vedremo domani cosa diranno per quanto riguarda il piano industriale. Valentina, grazie mille, ti lasciamo tornare ai lavori, ma soprattutto, siccome gli ascoltatori ci tengono, cerca di capire in tempi rapidi se la società manterrà la sua presenza nella Formula 1 come fornitore ufficiale di pneumatici, d'accordo? Perché grazie, sai che le curiosità sono di questo tipo. Grazie molto a Valentina Furlanetto, e noi concludiamo ancora con un paio di minuti con Saverio Fossati per discutere di questa riclassificazione catastale fatta su 175.000 immobili romani. E allora mi chiedo, per gli ascoltatori che non lo sanno e che non avessero mai sentito parlare di rendita catastale, perché è importante che sia corretta e pertinente appunto agli edifici e alle abitazioni? Da che cos'altro deriva dalla rendita catastale? E praticamente tutte le imposte sugli immobili, a cominciare dall'IMU. Per esempio, nelle abitazioni il valore, la base imponibile su cui si calcola l'IMU è la rendita catastale aggiornata del 5% moltiplicata per 160. Allo stesso modo l'imposta di registro, l'imposta sui trasferimenti, la TASI, sono tutte basate sulla rendita catastale. Scoccia quindi proprio un po' sapere che questi 175.000 proprietari fino a questo momento, cioè io li chiamerei solo evasori, come possiamo altro chiamarli? E allora non succede niente. Allora intendiamoci, ora queste persone sono state individuate con una notifica. Quindi il comune, se vuole, può avviare la procedura del comma 336 in realtà, cioè quella della informazione puntuale all'agenzia del territorio. Non è mai stato fatto, però una cosa non esclude l'altra. Io dico che non lo farà mai, perché si tratterebbe di aprire tirar dei fuori, contenziosi interminabili, certo, lo immagino. Sì, e poi insomma sono pur sempre 175.000 elettori questi qui, ecco, hai toccato un tasto. Ma è questa la ragione fondamentale, ovvio, per cui i comuni non hanno mai attuato quella procedura. Senti, abbiamo parlato di Roma e Milano, ci sono secondo te altre grandi città che sono pronte ad operazioni di questo tipo per fare un po' di cassa? Avrebbero potuto, hanno avuto 9 anni. Che io sappia, nessun comune, cioè questo di Roma è stato l'ultimo a chiederlo, ma la richiesta risale al 2010. Quindi sono passati tre anni, che tanto ci è voluto per fare questa operazione molto complessa da parte dell'Agenzia del Territorio, ora entrate. E quindi, che io sappia, non ci sono grandi comuni che hanno intenzione di mettersi in moto. Esprimiamo allora tutta la nostra solidarietà a queste persone che fino all'altro ieri abitavano nella capanna dello zio Tom a Roma. Grazie a Saverio Fossati per essere stato con noi, grazie ad Alessandro Iacopini che questa sera è stato in assistenza in redazione con me insieme a Barbara Bianchi, grazie a Paolo Corleoni invece per la regia. Ci sentiamo domani a Cuore Denari alle 11 e chissà domani sera chi c'è a Focus Economia. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.